Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati per una nuova puntata di Zibaldone qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Oggi parleremo di una cosa molto molto importante. Cominciamo con questa canzone per scaldare un po' i motori e cominciare a parlare di questa tematica, anzi queste tematiche. Che bella questa versione di una decina d'anni fa di un trio molto particolare, Lavorare con lentezza, il mitico brano di Enzo Del Re degli anni 70, epoca che ci porta ad altre lotte, al protagonismo dei sindacati, del movimento operaio, insomma un mondo molto diverso da quello attuale. Però ecco, Banzo, innanzitutto buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone, è una canzone che introduce molto bene il tema della puntata di quest'oggi. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Sì, un bellissimo inizio, una bellissima cover di un brano notissimo, forse dobbiamo anche dire chi ha realizzato questa cover. Certo. Si tratta di Carlone, Licalzi e Righeira, cioè il trombettista Giorgio Licalzi, Gianluigi Carlone, voce sax e flauto, membro della banda Osiris, e Johnson Righeira, che dei tre forse è il più noto, Stefano Righi, storico membro dei Righeira, che avevano proposto questa canzone all'interno di uno spettacolo del 2013 intitolato Italiani, che riproponeva 12 canzoni italiane di diversi periodi ed estrazioni, rivisitate in un modo molto sperimentale e multimediale, raccontandone genesi e influenze e anche il momento, il contesto della storia italiana nella quale furono create. Quindi, insomma, il brano di Enzo Del Re, personaggio del quale abbiamo parlato moltissimo a Zibaldone nel corso degli anni per via della sua importanza, popolarmente quello delle sedie, cioè quello che come unico accompagnamento musicale usava, percuoteva sedie. Insomma, Enzo Del Re è un personaggio importantissimo e questa canzone, il titolo di questa canzone è uscito dal periodo storico e dal suo ambito musicale di riferimento grazie al film di Guido Chiesa del 2004, appunto Lavorare con lentezza, che però quel periodo raccontava, perché parlava del movimento 77 e la canzone era diventata l'inno, la sigla, mi sono sbagliato, di Radio Alice, una delle prime storiche radio libere italiane. E quindi adesso che abbiamo spiegato il brano, qualcosa si capisce, insomma, una canzone che dice di non farsi male lavorando, ovviamente in un modo molto molto ironico e provocatorio, ed è facile dedurre che forse è facile dedurre che parleremo dei referendum dell'8-9 giugno. Il referendum dell'8-9 giugno è anche il titolo della puntata di oggi. Un tema fondamentale di cui è importante parlare, vista anche ormai la vicinanza della data. Mancano circa 3 settimane e l'ospite che avremo con noi quest'oggi a Zibaldone è Vincenzo Giordano. Lui è coordinatore del patronato Inca Spagna e coordinatore del comitato per il sì ai referendum dell'8 e 9 giugno. 5 sono i quesiti, insomma se ne è parlato poco, Banzo, ne parleremo quest'oggi proprio per questo, anche per capire su cosa si vota, quali sono i quesiti, che cosa implicano, e quindi insomma Vincenzo ci aiuterà a capire e poi darà anche informazioni, cosa importante per gli italiani residenti all'estero che hanno ovviamente diritto di voto se iscritti all'AIRE. E aggiungo solo una piccola cosa, poi dei referendum ne parleremo bene con Vincenzo con tutta calma, che tra l'altro Johnson Rigueira, grande amico, sarà presto a Barcellona perché suonerà in un festival che si tiene l'ultimo fine settimana di maggio. In realtà il Festival Repubblica si tiene il 31 maggio e l'1 giugno a Barcellona, suonano tante persone, avremo tempo di ritornarci qui a Zibaldone, e l'1 giugno, per chiudere questa 2 giorni di artisti italiani, di incontri, di dibattiti, ci sarà appunto anche Johnson Rigueira con un suo concerto. Banzo, però, visto che Vincenzo già ci sta aspettando, andiamo a palla e lanciamo il prossimo brano, che è, come le puntate che ascolteremo quest'oggi, legato alle tematiche del lavoro, ma poi anche a quella della cittadinanza, che è uno dei quesiti dei referendum dell'8 e 9 giugno. E troviamo sempre negli anni 70 un altro grande e anche lui ironico cantautore ed artista. Esatto, si tratta di un brano di Rino Gaetano intitolato L'operaio della Fiat, la 1100, cioè un altro titolo che spiega tutto all'inizio, tratto da Ingresso Libero, il primo album sulla lunga distanza del cantautore. Ci sono 9 tracce e c'è già, diciamo, alcune caratteristiche molto importanti della sua produzione, l'impegno politico e sociale, temi surreali, il paradosso, l'emigrazione, l'amore, e c'è anche l'alienazione industriale, che è un tema che, insomma, è molto in sintonia con i nostri di oggi, se vogliamo. E questo è il brano di chiusura dell'album, che affronta il periodo, diciamo, dell'autunno caldo e la contestazione operaia, e qui c'è un dettaglio storico, cioè il fatto che la 1100, il modello citato nel testo, fu sostituito nel listino della Fiat nel 1969, cioè autunno caldo proprio, e della storia, beh, adesso insomma si sentirà, di un operaio che si aliena dalla catena di montaggio, un po' la tematica anche della classe operaia va in paradiso alcuni anni prima, e alla fine si predispone per un fine settimana, forse all'epoca non si diceva ancora weekend, con gli amici, ma c'è un imprevisto, insomma, ascoltate la canzone. Ma sì, molti l'ascolteranno sicuramente, ma soprattutto molti la conosceranno. L'operaio della 1100, della Fiat, la 1100, Rino Gaetano. Hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene. Noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. La 1100, la 1100. Hai lasciato la catena, un bicchiere di vino buono ti ridà tutto il calore, trovi la tua donna, fai l'amore, sei già pronto per partire, spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata. La 1100, la 1100, la 1100. E per parlare dei referendum dell'8 e 9 giugno, come vi abbiamo già annunciato, abbiamo un ospite quest'oggi che è Vincenzo Giordano, coordinatore del patronato Inca Spagna e coordinatore del comitato per il sì, appunto al referendum dell'8 e 9 giugno, per la Spagna e anche per il Portogallo. Vincenzo, innanzitutto buon pomeriggio e benvenuto a Zibaldone. Grazie Steven, un saluto a tutti i radioascoltatori di Zibaldone. Ascolta Vincenzo, innanzitutto partiamo da qua. Di questi referendum fino adesso se ne è parlato davvero poco e si vota tra pochissime settimane. Perché è importante parlare di questi referendum? E tra l'altro, tra virgolette, ti chiedo anche, o tra parentesi, perché se ne sta parlando così poco? Allora, è importante parlare di questi referendum perché ciascuno di noi con il voto ha la possibilità di cambiare in meglio il paese. Anche se noi viviamo all'estero, però dobbiamo dare la possibilità, ad esempio, a tanti nostri concittadini che vogliono tornare in Italia di avere un lavoro più sicuro, cancellare leggi che hanno reso lavoratori e lavoratrici più poveri e precari. E quindi la nostra intenzione è quella di rimuovere l'ingiustizia che nega il diritto anche alla cittadinanza a più di 2,5 milioni di persone che vivono e lavorano in Italia. Quindi è importante parlarle e soprattutto è importante partecipare. È questo che si sta provando a fare in Italia, quello di boicottare la partecipazione e quindi evitare che questi referendum superino il quorum e possono essere validi e passare, quindi andare a abolire quelle leggi che abbiamo intenzione di fare. Adesso con te, tra l'altro, insomma, oggi ne parliamo con calma per capire davvero su cosa si vota, cosa implicano questi referendum, le domande e nel caso in cui appunto si raggiunga il quorum. Tra l'altro ricordo anche ai nostri ascoltatori che insomma referendum ce ne sono stati negli ultimi decenni in Italia, ma dal 1997 solamente uno, erano più domande, quello del 2011 sull'acqua pubblica eccetera, è l'unico che ha superato il quorum. Quindi insomma partecipare in una democrazia, come già dicevi tu Vincenzo, è importante, è fondamentale e per di più io credo, tenendo conto di quello che è successo negli ultimi quasi 30 anni in Italia con i referendum che si sono tenuti, di diverso tipo ovviamente, ecco, forse ancora di più per dare un segnale che c'è una volontà di partecipazione in un momento di crisi della democrazia, non solo in Italia ma davvero a livello globale, come sappiamo. Si vota l'8 e 9 giugno. Prima di entrare nelle domande, Vincenzo, delle domande del referendum e parlarne, ti volevo anche dire, dicevi, è importante, no, farlo anche dall'estero, ecco, perché qui è importante ricordare che si può votare anche dall'estero. Sì, quello sì. Ricordiamo che gli iscritti AIRE, quindi cittadini residenti all'estero, sono più di 5 milioni di cittadini, e la mobilitazione di questi cittadini sono fondamentale anche per il superamento e il raggiungimento del quorum. Si vota all'estero, spieghiamo brevemente come. Si voterà per posta. I cittadini iscritti AIRE riceveranno un plico a partire dal 20-21 maggio, già con le schede elettorali, quindi votare e rispedire all'autorità consolare competente di residenza. La cosa importante è quella che il plico arrivi entro il 5 giugno, quindi abbiamo anche dei tempi stretti evidentemente per, diciamo, per svolgere il nostro diritto al voto. Quindi dal 21 maggio, se le cose arrivano in tempo, no? E c'è tempo un paio di settimane per rimandare il plico al consolato generale di riferimento, per chi vive ovviamente a Barcellona, in Catalogna, si tratta del consolato generale d'Italia a Barcellona. E tra l'altro anche un'altra cosa forse importante, nel caso in cui qualcuno non riceva il plico a tempo, ecco, deve rapidamente mettersi in contatto, no? Con il consolato di riferimento. Sì, il consolato ha messo a disposizione, diciamo, un'email dell'ufficio elettorale, quindi chi non riceve il plico può contattare via mail il consolato. Vi do anche la mail, così barcellona.elettorale@estiri.it, quindi il cittadino, nel caso in cui non riceva il plico, può contattare l'autorità consolare, l'ufficio elettorale, e chiederne il duplicato o il rinvio. No, questo è importante tenerne conto, come anche il dato, no, che tu davi, che io credo che sia importante. Ecco, gli italiani all'estero sono circa 5 milioni, quindi stiamo parlando di una percentuale grande rispetto appunto alla popolazione italiana, e quindi la partecipazione anche di chi vota all'estero, tenendo conto che sono molto rilevanti queste questioni per il futuro del paese, per il futuro del lavoro in Italia, ecco, insomma, che si faccia uno sforzo e che si partecipi, ecco, è un diritto, ma dovrebbe essere anche, appunto, ed è bene ricordarlo, un dovere. Ascolta, Vincenzo, entriamo un po' nel dettaglio, no, di questi cinque quesiti, no, che conformano il referendum dell'8 e 9 giugno. I primi quattro hanno a che fare con questioni relative al mondo del lavoro, no? E qui è stata anche fondamentale, diciamo, la ricerca delle firme, no, l'anno scorso, insomma, con una campagna molto, molto importante dei sindacati. Sì, allora, diciamo, la mobilitazione della CGIL sulla raccolta firme è iniziata l'anno scorso. Voglio ricordare che abbiamo raccolto più di 5 milioni di firme per i primi quattro quesiti sul lavoro e il quinto sulla cittadinanza. Quindi c'è stata una mobilitazione e una partecipazione importante da non sottovalutare. Entrando nel merito dei quesiti, questi quesiti parlano chiaramente di dignità, di stabilità, di sicurezza e di cittadinanza. Diciamo, questi sono i quattro slogan. Il primo quesito parla chiaramente di stop ai licenziamenti illegittimi. Cioè, oggi nelle imprese con più di 15 dipendenti, soprattutto per quei lavoratori e lavoratrici assunti dopo il 7 marzo, che sono più di 3 milioni e mezzo di lavoratori, e in maggioranza, voglio ricordare, giovani, oggi in caso di licenziamento non hanno il diritto al reintegro, anche nel caso in cui un giudice dichiari ingiusta e infondata l'interruzione del rapporto di lavoro. Quindi, votando sì a questo quesito, abroghiamo questa norma e diamo uno stop ai licenziamenti privi di giusta causa o di giustificato motivo. Il secondo quesito parla di tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese. Oggi nelle imprese con meno di 16 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, oggi un lavoratore o una lavoratrice al massimo può ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora un giudice reputa infondata l'interruzione del rapporto di lavoro. Stiamo parlando di una condizione che tiene più di 3 milioni e 700 mila lavoratori in soggezione rispetto all'azienda. Quindi, abrogando questo limite, aumentiamo gli indennizi sulla base anche della capacità economica dell'azienda, dei carichi familiari e anche dell'età delle lavoratrici e dei lavoratori. Il terzo quesito parla di riduzione del lavoro precario. Oggi abbiamo in Italia circa 2 milioni e 300 mila persone che hanno contratti a lavoro a tempo determinato. Questi rapporti a termine oggi possono essere instaurati fino a 12 mesi senza alcuna ragione oggettiva che giustifichi il lavoro temporaneo. Quindi rendiamo un lavoro più stabile, quindi ripristiniamo anche l'obbligo, questo è importante, di causali per ricorso ai contratti a tempo indeterminato. Il quarto quesito parla di sicurezza sul posto di lavoro. Oggi ricordiamo che in Italia abbiamo più di 500 mila denunce di infortuni sul lavoro. euro e quasi più di 1000 morti. Quasi è un dramma, quindi stiamo parlando di 3 morti al giorno quasi. Quindi modificando queste norme attuali, votando sì, che impediscono anche in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. Quindi cambiamo leggi che favoriscono il ricorso da appaltatori privi di solidarietà finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche. Quindi abrogare la norma ad essere in essere ed estendere la responsabilità dell'imprenditore committente, che significa anche garantire maggiore sicurezza sul lavoro. E quindi il quinto quesito, che più integrazione attraverso la cittadinanza. Votando sì, oggi riduciamo da 10 a 5 anni la residenza legale in Italia per richiedere richiesti per poter fare domanda di cittadinanza italiana, che una volta ottenuta sarebbe anche trasmessa a figli, alle figlie minorenni. Questa modifica costituisce una conquista decisiva per più di 2,5 milioni di cittadini e cittadine di origine straniera che nel nostro paese nascono, crescono, abitano, studiano e lavorano. Quindi dobbiamo allinearci ai maggiori paesi europei, che hanno già compreso come promuovere i diritti e tutele e opportunità si possono garantire ricchezza e crescita per il nostro paese. No, sono 5 questioni, diciamo i 2 grandi ambiti, no? Il lavoro e appunto la cittadinanza, che sono chiave per il presente e per il futuro. Effettivamente, Vincenzo, grazie per averci spiegato, no? In modo così conciso ma preciso che cosa riguardano e che possibilità ci sono, no? Nel caso di votare sì, se questi referendum passano. Perché in fin dei conti, e parto dalla questione sul lavoro, no? Che appunto la CGIL, come anche la cittadinanza in realtà, ha seguito e difende da tantissimi anni. In realtà, no, quindi queste 4 quesiti riguardanti il lavoro cercano, diciamo, di smontare alcuni no, delle trasformazioni, delle controriforme dovute al Jobs Act, tra le altre leggi, diciamo, che hanno ridotto i diritti sul lavoro o precarizzato il lavoro negli ultimi decenni in Italia. Con questi referendum diciamo che sono trasversali, diciamola così, nel senso che andando a votare oggi non si vota né per un partito né per l'altro, nel senso che noi andiamo all'intenzione nostra è quello di ristabilire diritti, ridurre al massimo, se non abolire, la precarietà che oggi le riforme degli ultimi 25-30 anni hanno colpito lavoratrici e lavoratori. Poi non immaginiamo che anche dal punto di vista salariale l'Italia è uno dei paesi che ha visto la riduzione cospicua dei poteri d'acquisto dei salari, quindi è importante oggi questo strumento, perché andiamo a incidere direttamente noi come cittadini e cittadine e come lavoratrici e lavoratori direttamente sulle le leggi che oggi sono in vigore, senza l'intermediazione di nessun soggetto politico o entità politica. Quindi per questo che è importante oggi la partecipazione al voto. E infatti voglio ricordare che, diciamo, lo slogan della nostra campagna, che è il voto è la nostra rivolta, nel senso attraverso il voto, attraverso questo strumento democratico che la nostra Costituzione ci permette di utilizzare, possiamo esprimere la nostra ribellione, la nostra rivolta rispetto a uno status quo e con la possibilità di cambiare, come diceva qualcuno tanti anni fa, lo stato di cose presenti. Assolutamente, tu davi prima dei dati, no? Spiegando i quesiti che sono drammatici o come minimo, insomma, fanno veramente sbarrare gli occhi, no? Perché davi i numeri delle morti sul lavoro, che sono circa 1 migliaio all'anno, senza contare poi gli infortuni che non causano per fortuna morte e le denunce, ma poi anche davi dei numeri altissimi appunto su, per esempio, riguardando la cittadinanza, persone che non possono ottenere la cittadinanza in Italia o che hanno dei paletti davvero che lo rendono fuori dal tempo nel ventunesimo secolo, o anche altre questioni riguardanti appunto la precarizzazione del lavoro. Cioè stiamo parlando di tematiche che non riguardano, no, come a volte si sente dire, un'estrema minoranza della popolazione italiana, come qualcuno ha avuto addirittura il coraggio, la sventura di ripetere che sono dei quesiti che hanno a che fare solo con le elite sindacali, ecco, ma invece riguardano una gran parte della cittadinanza, dei lavoratori o di persone che non hanno nemmeno la cittadinanza, ecco, per parlare del quinto quesito. Sì, come dicevi te, Steven, molti pensano che riguarda solo una piccola nicchia di lavoratrici e lavoratori. No, questo sono problemi che riguardano la stragrande maggioranza dei lavoratori. Oggi la precarietà è generalizzata, non lo dimentichiamo. Questi sono numeri che abbiamo dato, ma che probabilmente sono anche sottostimati, penso io. Quindi oggi una battaglia contro la precarietà e per ridare dignità al lavoro è di vitale importanza, ma non è solo una battaglia sull'italiana. Questi referendum parlano anche di una battaglia anche a livello europeo, perché non dimentichiamo che la precarizzazione del lavoro non è solo in Italia, ma è un processo diciamo globale europeo, quindi partiamo dall'Italia, ma per poi diffondere e estendere le battaglie, sperando che si possa anche arrivare, come è stato fatto qua in Spagna, a una riforma del lavoro che renda il lavoro più dignitoso e più sicuro. E rispetto alla cittadinanza, il quesito parla di ridurre da 10 a 5 anni, ma non dimentichiamo che per ottenere la cittadinanza non ci vogliono solo 10 anni, ma tutto il processo burocratico porta oggi che a 15-16 anni di tempo per avere ridurla a 5 anni è un grande avanzamento, ma non dimentichiamo poi i tempi burocratici che estendono questo periodo. Poi non solo la difficoltà di molti cittadini e cittadine che arrivano da paesi in cui è anche difficile reperire dei documenti, quindi dobbiamo solo attraverso questo strumento dobbiamo ridare dignità rispetto a cittadinanza a tanti lavoratori stranieri che oggi vivono, i loro figli crescono, vanno a scuola in Italia. Quindi questa è una battaglia di civiltà, quindi non dobbiamo dimenticarlo, perché poi riguarda anche indirettamente a noi cittadini italiani che viviamo all'estero, che anche qua in Spagna vorremmo anche avere il diritto di avere la cittadinanza e anche di poi partecipare alla vita politica del paese in cui oggi siamo residenti. Quindi queste sono battaglie non solo che riguardano l'Italia, ma sono battaglie che vanno al di là dell'Italia. Quindi come cittadini e come residenti all'estero abbiamo il dovere e il diritto di intraprendere queste battaglie per poi avere anche una visione più globale dei problemi che oggi abbiamo. No, certo, ed è tra l'altro molto importante, credo, ricordarlo in questa congiuntura politica internazionale, anche europea, che è una congiuntura molto complessa, come sappiamo, e ricordarla una settimana dal 9 maggio, che è la giornata dell'Europa, che si è tenuta la settimana scorsa, appunto in un contesto segnato da guerre a livello internazionale, tensioni crescenti, non parliamo del ruolo dell'amministrazione Trump, di un piano di riarmo europeo, no? Come è stato presentato, che mette in secondo piano invece altre questioni che dovrebbero essere forse, dal mio punto di vista almeno, molto molto più importanti per il progetto europeo e per i valori che difende almeno sulla carta il progetto europeo. Quindi certo, le questioni della cittadinanza, le questioni del lavoro che appunto fanno parte di questi 5 quesiti che ricordiamo si possono votare il prossimo 8 e 9 giugno in Italia, tutto l'8 giugno dalle 7 alle 23 e l'8 giugno dalle 7 alle 15, per chi invece risiede appunto all'estero, come abbiamo spiegato prima, precedentemente, no? Ricevendo a casa il plico a partire dal 20-21 maggio, che deve essere rispedito al consolato di riferimento entro il 5 giugno. E che appunto è molto importante, no? Partecipare, votare, come tu dicevi, Vincenzo. Un'altra cosa importante per chi vive in Spagna, e tu parlavi anche appunto di una battaglia che supera le frontiere italiane, nel senso che riguarda tutti, perché sono delle battaglie di civiltà e su un miglioramento appunto delle condizioni di vita, di lavoro in Italia, ma in realtà appunto anche in Europa, no? Avete organizzato per i prossimi giorni, durante appunto la campagna per il referendum, delle assemblee, degli incontri in diverse città spagnole. Sì, allora, come dicevo in precedenza, questa è una battaglia che non è solo italiana, ma anche europea. Quindi per questo che abbiamo avuto la solidarietà, diciamo, e anche l'appoggio dei sindacati anche qua in Spagna, in particolare di Commissione Sobreras, che è comunque il nostro sindacato fratello, con cui condividiamo storia e legami profondi. Sì, come comitato abbiamo organizzato delle assemblee, degli incontri pubblici per informare dei quesiti e per, chiaramente, per far campagna per il sì. Il primo appuntamento sarà il 21 maggio alle ore 20 presso il ristorante Santa Fe a Madrid. Ci sarà un incontro pubblico organizzato da Arci Madrid e dal comitato, dove interverrà Walter Massa, presidente nazionale dell'Arci, poi ci sarà la compagna Rossella Marinucci della CGL Nazionale, poi abbiamo Felix Ovejero Torres, che è il segretario Segreteria Internazionale Cooperazione e Migrazione di Commissione Sobreras, e Jesús Gallego, segretario confederale di Politica Internazionale della UGT, dove coordinerà Marisa Bafile. Poi il 22 di maggio abbiamo organizzato un'assemblea, e questo ricordo a tutti i telespettatori di partecipare, il giovedì 22 maggio a Barcellona alle ore 18 presso l'ESPAI Assemblea di Commissione Sobreras di Catalunya, dove interverrà Belén López Sánchez, la neo segretaria generale di Commissione Sobreras Catalunya appena eletta al scorso congresso, sempre Rossella Marinucci della CGL Nazionale. In collegamento dall'Italia ci sarà Federico Martelloni, professore di diritto del lavoro all'Università di Bologna, l'alma mater, Javier Bonomi, presidente di Federe Latina, della Federazione delle Entità Latinoamericane di Catalunya, e modera Maria Luisa D'Addabbo dell'Associazione Altri Italia di Barcellona. E questo è organizzato dal Comitato PVC e da tutte le, diciamo, i soggetti, le entità, partiti e associazioni che fanno parte del Comitato. E poi per ultimo, il 28 maggio, ad Alicante, dove anche lì c'è una presenza cospicua di cittadini italiani, vorrei ricordare che tra solo tra la provincia di Alicante e Murcia ci sono quasi 17.000 iscritti AIRE, anche lì faremo un incontro informativo dove parteciperà la segretaria generale di Commissione Sobreras del Paese Valenziano, della zona dell'Alicantino e della Smarines, Eva Calleja Risueño. Poi Gabriella Mazzon, ex professoressa di linguistica inglese all'Università di Innsbruck, poi in collegamento d'Italia sarà Andrea Malpassi della CGL Nazionale, modero io il dibattito, quindi sarà un incontro pubblico informativo per spiegare ai cittadini su cosa si vota, perché noi appoggiamo il sì. Ottimo, quindi 21 maggio a Madrid, 22 maggio a Barcellona, 28 maggio ad Alicante. Ascolta, sì. Vincenzo, maggiori informazioni immagino che si trovano sui social, se qualcuno volesse saperne di più anche del vostro comitato, di quello che organizzate, della, insomma, magari dei materiali che mettete a disposizione, come vi può trovare? Sì, allora, noi abbiamo già una pagina Facebook del Comitato per il Sì Spagna e Portogallo, quindi anche lì troverete tutte le informazioni, sia sugli eventi che organizziamo e anche il materiale informativo sulla pagina Facebook di Inca Spagna e un po' su tutti i social. Poi ricordo che la sede, diciamo, del comitato è in via Laietana 16, quindi per chi a Barcellona risiede può passare lì e raccogliere tutto il materiale informativo. Tutte le informazioni di come si vota, sulle procedure di voto, le potete trovare in maniera anche molto chiara sia sul sito del Consolato Generale d'Italia di Barcellona che di Madrid, perché è residente a Madrid. E quindi niente, noi siamo qua e abbiamo materiale informativo sia in italiano che in spagnolo, perché vorrei ricordare che abbiamo anche un grande pezzo della cittadini italiani di origine italo-argentina, a cui facciamo da qua anche un appello alla partecipazione al voto, perché comunque anche la loro partecipazione è importante, quindi il materiale è anche in spagnolo per far capire, far comprendere anche a quei cittadini l'importanza del voto e perché si vota e perché appoggiamo i sì. Tra l'altro, piccolo dettaglio, no? Che non è un dettaglio in realtà, dicevi, no? Tra Alicante e Murcia ci sono circa 17.000 iscritti all'AIRE, no? In tutta la Spagna e il Portogallo, che insomma sono i due paesi di cui ti occupi, insomma, con il comitato e le altre persone che collaborano, il comitato per il sì al referendum dell'8 e 9 giugno, ormai se non erro si è attorno ai 400.000 italiani iscritti all'AIRE, è così, vero? Più o meno? Sì, i dati AIRE normalmente, diciamo, dalle notizie che io posso ricevere dalle autorità consolari sono sempre sottostimati rispetto alla reale presenza italiana, certo, nel paese. Quindi stiamo parlando di una comunità che non è consistente, ben radicata sia a livello sociale che economico. Sì, nella circoscrizione di Barcellona parliamo già di quasi 140-150.000 iscritti AIRE. Nella sola città di Barcellona pensiamo che la comunità italiana è la più grossa comunità straniera, anche su Madrid quindi in totale dovremmo arrivare sui 270-280.000 iscritti in tutta la Spagna. In Portogallo i numeri sono inferiori, ma, comunque sono, non, insomma, comunque, se comunque sono, import- sono importanti, importanti, certo. Quindi se superiamo comunque, insomma, tra i due paesi, sicuramente i 300.000 italiani iscritti all'AIRE, quindi che hanno diritto di voto, come ricordavamo prima. Sì. E magari ricordiamo solo un'ultima cosa che avevi già detto, Vincenzo, bando di, no, anche magari se stanchiamo l'ascoltatore, magari qualcuno si è preso questa informazione, che riguarda la mail del consolato nel caso in cui non si riceva il plico e quindi bisogna contattare il consolato. Se ce l'hai a mano e la vuoi ricordare, credo che possa essere molto utile. Allora la mail è barcellona.elettorale@esteri.it. Perfetto, quindi questa è la mail del consolato dove poter richiedere eventualmente il duplicato o anche vorrei ricordare una cosa ai telespettatori: molti che hanno fatto l'iscrizione AIRE qualche mese fa, ok, e non è stata ultimata, quindi io invito molti questi cittadini a rivolgersi al consolato attraverso quella mail per sollecitare la definizione dell'iscrizione AIRE, perché altrimenti questa persona si troverà nella situazione di non poter votare da una parte e dall'altra. Non può votare neanche in Italia perché probabilmente non può tornarci, ma non può votare neanche in Spagna perché, non essendo iscritto AIRE, non gli arriva il plico. Quindi diciamo, dal consolato ci hanno garantito che tutti coloro che avevano fatto iscrizionare entro il 31 dicembre del 2024, quelli non c'è nessun problema. Però ci sono tanti che hanno fatto iscrizione nei primi mesi dell'anno e anche fino adesso. Quindi a questi cittadini, invito a rivolgersi al consolato attraverso quella mail per eventualmente sollecitare la definizione dell'iscrizione AIRE e quindi essere inserito nella lista elettorale del consolato e poter esercitare il diritto al voto. Perfetto, Vincenzo, davvero grazie per il tuo tempo, per averci spiegato così in dettaglio, insomma, tante questioni anche tecniche, soprattutto il significato di questi 5 quesiti del referendum dell'8 e 9 giugno, l'importanza di votare. Vincenzo Giordano, coordinatore del patronato Inca Spagna e coordinatore del comitato Sì ai referendum dell'8 e 9 giugno per la Spagna e il Portogallo. Vincenzo, grazie mille, un abbraccio e buona serata. Grazie a te, Steven, e grazie di averci dato questa opportunità di spiegare i motivi del sì. E invito tutti ad andare a votare. Grazie mille, Steven. Sì. Amen. Amen. Nato in Italia, non scritto sulla sabbia. Prendi il mio nome, lo traduci, principe d'Arabia. Una voce che strilla da Roma fino a Cava. In questa società fredda cerco aria più calda. Figlio dell'amore, del cuore di due persone. Un mix di sangue, culture, razza e religione. So qui come portavoce, scendo in missione contro la disperazione che affligge troppe persone. Seconda generazione, guardo mio figlio e la terza. E te provi a sfiorarlo, te salta la testa. Se non lo capisci che hai trovato la ricchezza, noi pietre preziose in mezzo a tutta sta monnezza. Scrivo con la fame di chi non si rassegna. Prendo il vostro odio e lo trasformo in questa penna. SOS, bilancio negativo. Se mi sento uno straniero nel posto dove vivo. Sei, sei. SOS, bilancio negativo. Se mi chiamano straniero nel posto dove vivo. SOS, pronto all'esecuzione. Se mi chiamano straniero nella mia nazione. SOS, bilancio negativo. Se mi chiamano straniero, mi giro e gli sorrido. SOS, pronto all'esecuzione. Se me fanno, senti uno straniero nella sezione. Lo porto dalla strada e tutto il mondo è la mia casa. E Zaya, oh la Chico che passa. Non lo puoi fermare se espande a macchia d'olio. Te, Votamir, figlio di un immigrato al Campidoglio. Voglio fare i soldi come tutti i presidenti. Glielo dico in aula, in faccia a tutti i presenti. In un mondo dove il segreto è come ti presenti. Non fidarti di nessuno, te, meglio che me senti. Resto in bilico su un filo precario. Firmo un patto col diavolo e divento mercenario. Questa mir, l'ultimatum scritto con la bile. E non me clicchi, non me quitti, è finito le pile. L'oro che porto al collo me l'ha dato mio padre. Più voi dite cazzate, più lui continua a brillare. Fiero del mio nome, del mio sangue meticcio. Adesso me basta questo per sentirmi più ricco. Sei, sei. SOS, bilancio negativo. Se mi chiamano straniero nel posto dove vivo. SOS, pronto all'esecuzione. Se mi chiamano straniero nella mia nazione. SOS, bilancio negativo. Se mi chiamano straniero, mi giro e gli sorrido. SOS, pronto all'esecuzione. Se mi fanno, senti uno straniero nella mia nazione. Eh beh, un testo molto bello che appunto ci riporta Banzo su uno dei quesiti, l'ultimo, quello sulla cittadinanza di cui abbiamo parlato con Vincenzo Giordano, un brano tra l'altro Banzo che ha quasi 20 anni e che ci fa capire come questo tema davvero fino adesso non si è mai riuscito a risolvere in Italia, e ci auguriamo che in questo referendum almeno la situazione migliori. E ricordiamo anche di chi è questa canzone, di un bravissimo artista della scena rap romana. Sì, si tratta di Amir Issa, anche se all'epoca si presentava solo come Amir, dal suo primo album solista Uomo di Prestigio, che è del 2006, appunto sono passati quasi 20 anni, e beh, sul perché questi temi siano attuali allo stesso modo adesso come lo erano nel 2006, la spiegazione diciamo che si deve tutta alle resistenze della destra. Infatti il brano si titola Straniero della mia nazione, mentre lo ascoltavo pensavo che è una cosa che viene spesso detta da destra per millantare l'invasione degli stranieri. Ecco, qui in questo caso è declinata nel modo corretto, perché appunto abbiamo il punto di vista di Amir Issa, che è un cittadino italiano alla nascita, perché è di madre italiana ma di padre egiziano, e effettivamente ha un nome che non verrebbe considerato tradizionalmente italiano, e quindi i pregiudizi partono subito. E il brano è molto potente, prodotto da Bassi Maestro, che è una leggenda dell'hip hop italiano, ma diciamo che, tornando sullo specifico del testo, Amir, benché fosse cittadino italiano in prima persona da subito, si è sempre impegnato sul tema della cittadinanza, il cosiddetto Ius Scholae, per esempio nel 2022, per sostenere la proposta, aveva lanciato su Spotify una playlist Youth Music dove c'erano 7 brani suoi dedicati nel corso degli anni all'argomento, che quindi diciamo ha trattato in modo molto esteso e a più riprese. Eh sì, facciamo adesso un salto indietro nel tempo alla fine degli anni 50 e torniamo al tema del lavoro, no? Che è al centro degli altri 4 quesiti del referendum dell'8 e 9 giugno, e andiamo ad ascoltarci un brano. Prima lo ascoltiamo e poi vi spiegheremo perché. Vi dico solo che è di Miranda Martino e si intitola Stasera tornerò. Quando uscirò di qui sarà già spento il sole, la notte mi parrà più chiara del giorno, perché a casa tornerò e là tu m'aspetterai, questa che ho dentro al cuor così finirà. A casa tornerò. cuor, così finirà. Un bel volo pindarico abbiamo fatto, Banzo, musicalmente parlando, ma anche appunto nel tempo. È un bel medley in realtà questa canzone, ecco, però c'è una ragione per cui la mandiamo in onda, che si lega, no, alla tematica e alla musica che stiamo proponendo attorno a questa tematica. Dammi un secondo per riprendermi dal salto pindarico, perché veramente credo sia stato uno dei più arditi della nostra onorata carriera. Comunque sì, c'è una ragione, questo brano non lo abbiamo trasmesso scegliendolo da un mucchione di canzoni degli anni 50. Sì, è un brano del 1959 che fungeva da sigla del programma TV del primo canale, che all'epoca era anche l'unico, La donna che lavora, cioè una inchiesta in 8 puntate realizzata dal giornalista Ugo Zatterin. E insomma, stiamo parlando del 1959, una tematica non ovvia, era un periodo in cui penso l'occupazione femminile fosse significativamente più bassa di quella attuale, come è ragionevole credere, e toccava questa serie temi salienti, la sperequazione salariale fra i sessi, come se adesso fosse un tema risolto, purtroppo l'immigrazione dei meridionali verso il nord industriale, perché eravamo anche all'inizio di quello che si considera il quinquennio convenzionale del boom italiano, 58-63, e i sogni e le prospettive delle giovani italiane nel nuovo contesto lavorativo occupazionale. Il programma ebbe un grande successo, come pure la sigla, che qui è divertente, Steven, perché abbiamo sentito all'inizio un frammento in siciliano, però Miranda Martino era originaria di Udine, ma di famiglia napoletana. E probabilmente il riferimento è un po' spaesante questa cosa. Il riferimento alla Sicilia, diciamo, è dovuto alle mode, al siciliano, all'uso del siciliano, alle mode culturali del momento, perché Modugno, che non vale la pena ricordare che neppure lui era siciliano, aveva popolarizzato questo genere cantando a sua volta in siciliano in quel periodo. E poi c'era un altro grande riferimento musicale, per quello hai parlato di medley, credo, cioè lo swing, perché alla Platters, perché Only You aveva avuto un successo incredibile in quegli anni in Italia, e quindi valeva ancora la pena cavalcare quello stile. E diciamo che la mescolanza è ardita, però è un brano che a suo modo fa parte della nostra storia. Sì, e tra l'altro, insomma, è logico che non ci sono rivendicazioni femministe in un brano come questo, ma l'epoca era quella che era, no? Un'Italia a una guida democristiana prima ancora dell'apertura al centro-sinistra, e l'anno dopo ci sarebbe stato, no, il caso del governo Tambroni, insomma, il tentativo di aprirsi addirittura all'MSI della DC dell'epoca. Però, ecco, erano tematiche inedite per la musica leggera dell'epoca, dove insomma il modello sanremese, che aveva già successo, parlava di mamme piangenti, donne angelicate, cose così, ecco, era dominante, però ancora per poco. Noi adesso rimaniamo su una voce femminile, però sì, ci avviciniamo. Comunque, dimmi Banzo. Steven, prima di annunciare il prossimo brano, non pensavo che saremmo riusciti a citare Tambroni in questa puntata. Non avevo considerato il rischio di un brano del 59, ti prego, vai avanti. Andiamo ad ascoltarci Cristina Donà, Senza disturbare, una bellissima canzone di qualche anno fa. Senza disturbare, senza disturbare. Sta per arrivare una grande decisione. Prego di qua. Sta per arrivare una grande decisione. Per una posizione, una vera condizione. Prego si tolga dalla luce e mi spieghi come mai. Prego, sia un po' più veloce, mi spieghi se mai. Nel suo futuro c'è chi aspetta. Oh, ma è bene che lei scelga. Oh, è bene che lei scelga, scelga o perda, o scelga o perda, o scelga. Giusta, senza vanità. Prego, sorrida enormemente, vediamo come va la sua bella presenza, richiesta dall'azienda, è una formalità. Lei certo capirà. Oh, lei certo capirà. Erano passati parecchi anni, no? Rispetto al brano che ci siamo sentiti prima, del 1959, di Miranda Martino con questa canzone di Cristina Donà, Senza disturbare. Era il 1997, era il suo primo album, prodotto tra l'altro da Manuel Agnelli, Tregua, e tornava su un tema, no? In fin dei conti, Banzo, di cui abbiamo già parlato, no? Le differenze appunto di genere nel mondo del lavoro. E è interessante brevemente leggere un commento che fece 20 anni dopo, quindi parliamo del 2017, la stessa Cristina Donà, ritornando su questo suo brano degli inizi, no? E disse: il pezzo parla di quello che mi era stato raccontato da una cara amica dopo un colloquio di lavoro. Non mettere la donna nelle condizioni di poter lavorare con dignità e di avere la possibilità di sposarsi e avere dei figli. La dice tutta sulla qualità di uno Stato che evidentemente non è in grado di gestire questa situazione, o che non è interessato a gestirla, per come pone la risoluzione dei problemi, da quelli lavorativi a quelli delle nuove leve, dei giovani. Non ci sono le caratteristiche che possano portare ad una crescita della società in modo congruo e ottimale, con un certo grado di dignità. Quella canzone racconta più o meno questo, insomma, e anche questo è importante ricordarlo, no? In una puntata come questa, Banzo, dedicata, lo ricordo ancora in chiusura, ai referendum dell'8-9 giugno, dove sarà importante votare, e dal nostro punto di vista ovviamente votare sì, come vi abbiamo cercato di spiegare, informando nel migliore dei modi possibile da Radio Contrabanda. Banzo, chiudiamo quest'oggi non con un ultimo trago, una canzone italiana cantata in altre lingue, ma con un altro brano italiano che, diciamo, su questo stesso filone, no? del lavoro e legati ai temi dei 5 quesiti referendari. Sì, un titolo che è tutto un programma, come si diceva forse nel 1959, che è Lavorare per il male, ma il brano è del 2019 ed è uscito solo in formato digitale in occasione della festa dei lavoratori, ed è una collaborazione, un brano di Tre Allegri Ragazzi Morti, ma con un featuring abbastanza notevole, cioè Pierpaolo Capovilla, che è noto come frontman del Teatro degli Orrori, ma aveva all'attivo anche l'esperienza dei One Dimensional Man, grandissimo gruppo noise rock, insomma, che nel nome già citava Marcuse, l'uomo una dimensione. Quindi i temi sono quelli. E il brano, Lavorare per il male, usciva il primo maggio perché parlava, nelle parole di Davide Toffolo, di una tematica drammatica come l'esigenza di lavorare contro l'etica dell'esistere. È diventa quasi un bellissimo slogan. Sì. È una canzone che offre punti di vista diversi sull'argomento del lavoro, l'azienda, il lavoratore e il narratore. E Toffolo dice che si tratta di una commedia cantata che può ricordare alcune cose di Gaber, ma insomma anche le canzoni più ironiche del teatro degli orrori. Insomma, immagino che il testo lo abbia scritto Capovilla e che in questo senso Toffolo lo descrivesse dall'esterno, ecco. Comunque è un brano che chiude in modo esemplare il nostro percorso di canzoni sul lavoro, e soprattutto è recente, abbastanza recente, a dimostrare che queste tematiche sono assolutamente di attualità. E noi ce lo andiamo a sentire, Lavorare per il male, Tre allegri ragazzi morti per Paolo Capovilla. Ci diamo appuntamento al prossimo venerdì per una nuova puntata di Zibaldone. Come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 17.55 tutti i venerdì diceva: non c'è niente da scherzare, andate a votare, perché sapete come funziona con il quorum. Ha fatto anche la rima questa volta. Ciao Banzo, buon venerdì sera, Lavorare per il male. Signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti, la nostra azienda è tra i leader mondiali nell'offerta di tecnologia in ambito civile e militare, soprattutto negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro. Lavorare per il male è una cosa naturale, è un lavoro normale. Non ci devi pensare, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Proteggendo le persone, contribuiamo alla ricerca scientifica e alla diffusione di una solida cultura tecnologica. La sintesi di un'eredità industriale, un fermo orientamento all'eccellenza, un'ambiziosa proiezione nel futuro, perché il futuro, vedrai che il futuro. Lavorare per il male è una cosa naturale, tanto che ti puoi dimenticare che stai lavorando per il male. Lavorare per il male è una cosa naturale, tanto che ti puoi dimenticare che stai lavorando per il male. Lavorare per il male è una cosa naturale, è un lavoro normale, non ci devi pensare, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, fatti fatti tuoi, fatti solo i fatti tuoi, l'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Siamo al fianco dei nostri clienti in un impegno a lungo termine per gestire prodotti, sistemi e soluzioni complesse con risposte affidabili, tempestive e personalizzate che garantiscono avanguardia tecnologica e massima efficacia operativa. La sintesi di un'eredità industriale, un fermo orientamento all'eccellenza, un'ambiziosa proiezione nel futuro, perché il futuro, vedrai che il futuro.